Friuli nel mondo, 132esima trasmissione dedicata agli emigrati. Nostalgia della villotta. Sagra della villotta in Carnia. Sagra che a Villa Santina, sotto le auspici della Scuole Libere Forlane e del gruppo SOT La Nape, ha avuto quest'anno il suo meritato trionfo. Sono ritornati questi gioielli di casa nostra a risplendere puri, sereni e nostalgici fra le tante e tante villotte del passato. Eseguite dal coro di piano d'arta diretto da Fiorendo De Colle, ascoltate Ami Dising di Michelutti Guido e Giulio Moro e Bocol di Rose di Giulio Moro. Il coro di Percotto, diretto da Don Alcide Venuti, esegue ora la villotta dal titolo Sagre a Blessan, di Romano Donato. Bless. La Vielute di Elio Fabbro è cantata dal coro Sotto la Nape di Villa Santina, diretto da Ernesto Dario. La Cisilute d'Avril di Luigi Nimis e Lino Sala è eseguita dallo stesso coro. Thank you. Ascoltate infine la bella composizione di Carlo Quaglia e Giulio Moro dal titolo Tu vas lontan, interpretata dal coro Sotto la nape. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari.